Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, Luca Tremolada al microfono. Oggi puntata speciale, oggi abbiamo qui con noi direttamente dagli Stati Uniti, di passaggio in Italia, Paolo Gargini, capo della ricerca di Intel, Intel Fellow, come si suol dire, uno dei personaggi più importanti dell'industria dei semiconduttori, una persona che insomma può sfogliare 40 anni di storia dell'informatica e che ha contribuito a scrivere le pagine della storia dell'informatica e dei semiconduttori. Partirei con lui dalla legge che ha dettato i tempi dell'industria dell'elettronica del consumo e del computing. Parliamo della legge di Moore. Prima di tutto, se mi permette, vorrei spiegare la legge di Moore, anche perché ho avuto la fortuna che il mio ufficio era a due uffici distante da Moore, per cui invece di averla letta sui giornali l'ho discussa direttamente con lui. Fino agli anni 60... gli unici transistori che esistevano erano dei transistori individuali, per cui se vado per esempio a pensare nel 1963, quando ho costruito la mia prima radio a transistori, si trattava di prendere una piastra, dopodiché su questa piastra c'erano delle interconnessioni e poi uno metteva delle basette, dentro a queste basette metteva i transistori individuali. E questo era già un risultato eccezionale, perché era una transazione dai tubi elettronici, che erano come delle lampadine essenzialmente, a questi componenti che consumavano una bassa potenza. I primi progetti e la prima realizzazione dei circuiti integrati cominciò nel 1959 con Bob Noyce, che fece la prima dimostrazione che si potesse fare un circuito integrato. Il vantaggio di fare questi circuiti integrati consisteva nel fatto che si poteva mettere molti componenti in uno spazio ridotto, però le prestazioni di queste componenti erano inferiori alla prestazione di componenti discreti, di quelli individuali. E allora nel 1965 Moore cercò di stimolare il mercato e di far capire agli utenti che, anche se questi circuiti integrati avevano dei componenti di prestazioni inferiori a quelli individuali, però permettevano di mettere in uno spazio limitato così tanti componenti che era lasciato alla creatività dei progettisti di avere delle idee nuove e utilizzare molti componenti, forse non perfetti o non così buoni come quelli individuali, ma invece di utilizzare 1, 2, 5 componenti, Moore spiegò come nei prossimi 10 anni ci sarebbero stati dei circuiti integrati con 60.000 componenti. Per cui il suo interesse era di far capire che il passo a cui questi circuiti integrati avrebbero aumentato il numero di componenti sarebbe stato molto veloce, e quello che disse nel 1965 fu che ogni anno il numero di componenti sarebbe raddoppiato. E dopo, nel 1975, di nuovo riaggiustò la sua predizione, perché le prime memorie avevano bisogno di 6 transistori, ma nel 1975 la memoria consisteva già di un transistore unico, per cui lui disse la componente di riduzione derivante dalla riduzione di componenti per cella di memoria, questa è terminata, per cui invece di raddoppiare ogni anno, da ora in poi si raddoppierà ogni 2 anni. Questa legge fu presa poi dal mondo dell'industria dei semiconduttori come una legge fisica, come una legge scritta nella pietra. Fatto sta che cominciò una corsa a aumentare la potenza dei chip e ad aumentare anche le prestazioni dei computer, una corsa che da un certo punto di vista cominciò a sfuggire di mano, ma forse si capì poco che cosa fosse realmente la legge di Moore. Questa non è una legge fisica, è semplicemente una predizione economica. È come dire, il tasso di crescita di una nazione può essere dal 3 al 5%, per cui uno può fare dei piani a lungo raggio, e questo era il suo significato. E la prima persona a essere sorpresa che dopo 20 anni questo valesse ancora era proprio Gordon Moore, che si aspettava che da un momento all'altro questa incrementazione sarebbe riuscita ad arrivare a un limite. Il fatto che non è ben compreso è che questo non è arrivato a un limite. E tutt'oggi si raddoppia il numero di transistori che si può fare su un circuito integrato ogni 2 anni, e l'aspettativa che questo continuerà almeno fino alla fine di questo decennio. C'è un limite fisico, cioè c'è un limite oltre il quale non si possono comprimere, insomma, transistor all'interno di un circuito? Per quanto riguarda i componenti che si stanno facendo in questo momento, che sono delle dimensioni di circa 30 nanometri, questo vuol dire grosso modo 60 atomi, si pensa di poter arrivare nella zona dei 10-20 atomi, ancora fare dei componenti. Per cui questo vale a dire alla fine di questo decennio, quello che sta arrivando, probabilmente componenti con dimensioni di 10 o anche 8 nanometri saranno possibili. Allora, per capirci, si va verso dimensioni simili a quelle di un enzima. Si sta parlando di componenti che sono grosso modo 10, 15, 20 atomi. Va bene? E a questo punto il vantaggio della miniaturizzazione consiste nel fatto che i consumi di potenza vengono ridotti per componenti più piccoli, perché l'energia necessaria a fare cambiare un componente da uno stato on a uno stato off continua a diminuire. L'unica cosa che deve essere considerata è che anche se l'energia per componente diminuisce, se il numero di componenti cresce a una velocità maggiore, allora è quello che fa preoccupare, che ci preoccupa per la dissipazione di calore, è l'aumento del numero di componenti. Con questo ci sono diverse tecniche per poter minimizzare questo calore. Per esempio, per darle un'idea, negli anni 90 avevamo introdotto il Pentium, che aveva 3,7 milioni di transistori. Oggigiorno, su un circuito integrato di larga scala, ci possono essere da 1 a 2, 3 miliardi di transistori. E in questo circuito ci possono essere 8, 10 Pentium, che regolano la temperatura, la velocità e così via. Per cui è come gestire una città in cui si può controllare i semafori, si può controllare molte cose, per cui il circuito è autoregolante: se la temperatura va più alta viene automaticamente rallentato e così via. Per cui non siamo passivi a guardare questi effetti, ma c'è un circuito attivo che può reagire alle condizioni ambientali e sta diventando un'entità intelligente. Peraltro a questo va associato anche la richiesta forte che arriva all'industria dei semiconduttori, dei computer, di un risparmio di energia, una richiesta che è un po' in linea con lo spirito dei tempi. Un circuito anche 10 anni fa aveva dei consumi dell'ordine di 100-120 watt. E i circuiti di Adam, per esempio, che si sta adoperando ora, ha un consumo di 1 o 2 watt. La prossima generazione avrà dei consumi inferiori al 0,5 watt. Per cui, da un punto di vista di progettazione, l'abilità di fare circuiti a basso consumo di potenza è un elemento in cui stiamo procedendo molto attivamente. L'altra cosa che riguarda l'energia in generale risiede nel fatto che molte applicazioni, molti elementi della società in cui viviamo non hanno ancora beneficiato dei processi tecnologici. Per cui un tipico esempio negli Stati Uniti e simile in Europa: la rete di distribuzione elettrica che in questo momento è completamente una rete aperta, vale a dire non ci sono controlli o regolazioni di come l'energia elettrica si trasferisca da un lato di una, della rete a un altro. Per esempio, se a New York c'è una sovrattenzione, l'effetto di questa sovrattenzione può viaggiare 2000 chilometri e farsi sentire in Arizona. La nascita di una rete intelligente dell'energia è anche un tema europeo. Negli Stati Uniti il Dipartimento dell'Energia, che in questo momento sta cercando di minimizzare e migliorare i problemi e migliorare la situazione della rete, ci ha chiesto di aiutarli a costruire questa roadmap per l'energia, in cui si potrebbe controllare la rete come si controlla un circuito integrato, vale a dire ci sono dei punti in cui si può fermare l'energia, metterla da parte per i tempi migliori, controllarla, diminuirla, dirottarla. Tutto questo non esiste, è come un sistema di fiumi senza dighe, canali, per cui un'onda di marea si propaga attraverso senza nessun controllo e uno dopo soffre le conseguenze. Nova Lab 24. Siamo tornati in studio, Luca Tremolada, siamo con Paolo Garegini, capo della ricerca di Intel, uno dei capi della ricerca di Intel, chiamato a disegnare quella che è la roadmap del 2025, ossia la mappa dello sviluppo dell'industria dei computer per i prossimi anni. Torniamo a un tema con lui, a lui caro, come si ricerca, come si crea innovazione in una grande multinazionale come Intel? In alcuni casi sono lieto di aver apportato un contributo made in Italy che ha fatto, almeno ha avuto un impatto in alcune cose. Un modo di guardare agli sviluppi tecnologici e rendersi conto è come avere 3 o 4 orologi che funzionano su dei tempi diversi, per cui la ricerca tecnologica avanza su un passo grosso modo dei 10-15 anni, le grandi invenzioni su un passo dei 100 anni e alla fine di tutto questo l'introduzione di nuove tecnologie occorre con un passo di 2 anni. Per cui sincronizzare tutti questi elementi intermedi è una delle chiavi di successo. Per cui normalmente quello di cui mi occupo è appunto l'anno 220 o 225 in preparazione per quell'anno, e questo è 2010, e per cui il tempo di incubazione è dell'ordine di 10 anni. E durante questo tempo ci sono diverse scelte che devono essere fatte sugli approcci che sono più che hanno la più alta probabilità di successo da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista economico. Possiamo dare dei numeri per capire come state pianificando la ricerca? In questo momento in produzione i componenti sono dell'ordine di 32 nanometri. I componenti che sono negli sviluppi sono dell'ordine di 22 nanometri e questi saranno pronti per preproduzione nell'anno 2011. Poi c'è un altro gruppo che esplora 3 o 4 possibilità che saranno per componenti da 16 nanometri e questi saranno in produzione nell'anno 2013. E dopo c'è un altro gruppo che guarda agli 11 nanometri e questi saranno in produzione nell'anno 2015. Quello che faccio io, faccio 10 e meno, che è per il 2017 e così via, no? Per cui è importante capire che c'è questa sequenza che mantiene questo passo di tecnologia, ed è questo uno dei segreti che ha permesso all'Intel di mantenere questo passo. L'altro elemento che è stato fondamentale è che mentre il mantenere un equilibrio tra continua innovazione e pianificazione. Uno degli elementi fondamentali è che facciamo innovazione pianificata, vale a dire ogni generazione può solo permettersi di avere un 20% di innovazione, perché se ogni volta uno deve fare qualcosa di rivoluzionario sarebbe impossibile di poterlo costruire in modo economico e così via. Per cui l'abilità che abbiamo sviluppato a cominciare dalla metà degli anni Ottanta nello scegliere questo 20% che porta il massimo vantaggio e mantenere immutato quell'altro 80%, di modo che uno si può concentrare su una parte sola dello sviluppo e concentrare tutte le forze invece di spanderle attraverso il 100%. Due elementi, tanto per dirlo, siccome questi siamo in Italia, lo posso raccontare. Negli anni Ottanta la predominanza del Giappone nei circuiti integrati stava diventando abbastanza predominante, effettivamente, e il fatto che a quel punto l'Intel avesse aperto un mercato nuovo per i circuiti integrati per i microprocessori era una situazione in cui bisognava cercare di tenersi indipendenti, perché queste fabbriche, queste aziende giapponesi erano 10 volte più grandi dell'Intel. E per cui verso la fine degli anni Ottanta si doveva pensare un metodo in cui rimanere immuni da questo attacco. In quel punto l'industria viaggiava con un passo di 3 anni, vale a dire una memoria veniva introdotta ogni 3 anni, no? E questo qui era per aziende molto grandi che avevano un sistema molto stabilizzato e così via, no? Cioè, in un certo senso ci stai dicendo che ha trovato un escamotage, un'ispirazione italiana per provare a risolvere questo problema di competizione. L'unico esempio a cui potevo pensare era l'esempio degli Oriazzi e Curiazzi. Dopo che due delle Oriazzi erano già morti, l'ultimo delle Oriazzi cominciò a correre. Allora si pianificò per i prossimi 10 anni di avere un passo di 2 anni. E effettivamente con questo passo di 2 anni ci vollero 5 o 6 anni prima che le grandi industrie giapponesi si rendessero conto di questo passo, e quando si cominciarono ad adeguare le avevamo già passate. Il secondo elemento era che è facile dire facciamo un passo di 2 anni, ma ci sono dei compromessi, qualcosa deve essere rinunciato. E una delle cose era che normalmente in queste aziende tecnologiche c'è una fase di sviluppo, poi c'è un gruppo che mette a punto il processo prima che vada in manufacturing, e dopo il gruppo di manufacturing che fa ancora dei cambiamenti. Fare 3 cambiamenti non era possibile. Allora di nuovo mi ricordai per esempio il caso di Michelangelo e la Cappella Sistina, no? Lui faceva gli schizzi su carta e poi i suoi assistenti li riproducevano esattamente. Per cui si disse, va bene, quando gli sviluppi sono completati, si farà copy exactly in manufacturing, e qui si eliminò questo re-engineering, che ha dei rischi perché avrebbe potuto fare un prodotto migliore, ma eliminando questo passo, uno poteva eliminare un anno dal processo, e questo è rimasto. E voglio dire che almeno l'idea iniziale vennero da esempi che ovviamente erano nostre, abbastanza fuori dalla tecnologia. Va bene, grazie Paolo Gregini, il nostro tempo è esaurito. Io ricordo, questa insomma è una delle abbiamo intenzione di fare tante interviste a tanti capi della ricerca delle grandi multinazionali, questa è la prima, ne seguiranno altre, vedremo se subito in estate o già a partire dall'anno prossimo. Intanto io ringrazio Gregini, l'ho già detto, e vi ricordo che Nova Lab 24 torna domani alle 16.30. Se volete scriverci, novalab24@radio24.it, oppure la pagina di Facebook, oppure il Twitter, twitter.com/novalab24. Nova Lab 24. Nova Lab 24.